Gianni, stai innescando. Gianni. Ehi, Antoni, là c'è venuto tempo, devo spegnere tutti gli apparecchi che ce l'avevo accesi per scaldare. Ah, non ho capito. Adesso sì, posso parlare, aspetta, c'è il cellulare. Io ho già fatto il pacco, sigillato, domani tira la soggetta dentro. Questo qui cos'è? 23 cari. Che cos'è? Che magulato ci becca, no, era matto sul radio, Com'è radio? No, non è brutta, la verità, non è brutta. Però la Zarga c'era sparata la radio, tutta la sangosa era. Non è brutta questa qua. È normale, una radio normale. Ma io più tardi rimetto lo sciure e cerco di adattarglielo, capito? Quanti attacchi c'ha quello? 4? Sì. Beh, allora non andrà bene. Glielo faccio, l'ho provato, adesso non va bene, capito? Ah, no. Saranno i vertigi, figli. Che è questo, quando chiudi il microfono manca anche la ricezione. Ecco. E vabbè, sarà la tessera dei fili, basta. Invertire i fili, magari. E cappa. Andà bene, Meda. Quindi glielo spedisci. L'altro qua, se ti chiama, rispediamo il mio. Non ho capito. Se ti chiama l'altro, rispediamo il mio. Ecco il microfono normale. Ah, metto lo schifo ormai. Ho già visto, strappato tutto, che ne faccio, già tutto sigillato. Ma magari, ma l'altro ha avvisato che non ho avuto. No, l'altro, ma se dico, non mi chiama, dice ti faccio politica, no, non farò neanche perché l'ho già dato via. Sì, ma se questo non adesso Martini va direttamente a farti il bonifico, c'è il numero tuo, ti manda i soldi, cazzo, tu non li mandi l'apparecchio, boh. No, io le rimando i soldi indietro, allora. Se avviso, no, mi dici che hai trovato già a vedere che l'hai venduto, punto. Sì, che mi chiama prima, non posso fare. Per correttezza, tu mi stai dicendo, uno si comporta, per correttezza si avvisa. E comunque, con lui voleva darmi solo 200 per i Galaxy, capito? Invece qua, Mazda 250, perché io ho cambiato tutto il prezzo, e più 20 di selezione, 270. Se l'ha pagato come caro. Deve essere che gli piace. Comunque non mi piace la ricezione di questo cazzo di apparato. No. Si è uscito tutto a tratti, si è sparito il radio. Ho detto che qua li cambio la colonnina e sera le metto. Non mi piace la ricezione. Guarda, già è abbastanza presente questa qua, però non c'è niente a che fare con l'altra dello sciura. Vabbè. Prova a parlare. Se no lo sciuro lo dai a me, ti do un microfono amplificato per colui. Non sa che caldo. Perché? Che tu vuoi uscire per dare un altro microfono amplificato, ma c'è tempo. No, io ma che ci possiamo cosa loro? C'è un microfono, amico, cosa? Che sono 100 euro, l'ho messo già di cose in vendita. Vedilo, vedi. Certo, io guardo tutto. Non scambio niente già. Adesso metto quello lo giure, più quello MP4, ZG, tutti e due, 150. Niente, prezzo suo. L'altro 50 euro forse è troppo. Che costano così. No, lo so, 120 euro, 32 sono 150. Se lui lo vuole singolo, sono quello lì 3 euro, glielo do 50 euro. Quindi c'è 50 più 2, se no 50 e 100. Se trovi che li compra. Fino adesso ho trovato tutto già. Stai tranquillo che io prendo tutto. Prendo, compro, scambio. No, io non scambio niente. A chi rimane si scambia. E a chi non aveva mai fatto gli scambi. Ma prima era diverso, adesso diverso. Adesso possiamo guadagnare così. Cazzo che forte che si fa adesso. Ho soltanto questo coso qui. Cazzo puttana. Cosa? Ho soltanto questa levella, meno la levetta, una volopolina, meno e più. Cazzo ti sento più bello là. Deve essere l'audio quello lì. Ma forse è il tono. Sì, chiaro chiaro. E faccio tu. Allora, il tono ci avevi dalla parte del coso che risulta più cupo. E a me non era, cazzo, cioè, era più cazzo, aspetta. Perché io poco fa non potevo parlare perché c'erano tutti gli apparecchi attaccati, che io in realtà ho sempre per scaldare. E quindi se io parlavo uscivo col fischio, capito? Andava bene, vera. Ero da Monicuzza. Che bella fighetta, ma ha dimagrito pure, è belluccia. Ah, innamorati di sì. Cappa, e sai, ho detto che ci sposiamo, gira, è indecisa. Ah, adesso è lei che è indecisa. E vabbè, ho detto, ma stiamo bene così, eccetera, stiamo bene, ok. Andiamo, dai, e vabbè. Oi, oi. Troppo figa, Ecco perché la storia del televisore nulla si è saputo. Non ho capito, del televisore? Della televisione. Niente. Nulla. Oh, mi è andato, fatti capisci. Adesso dovrò licenziare a Chiattino, lo sai. Devo licenziare a Pina. A Pina. Ehi, la maglia dei figli. Ma non ci credo. Eia, l'ho letto. Si è messa anche a piangere, le hanno fatto un'intervista, si è messa a piangere. Ha detto che ha fatto tanti sacrifici, adesso la stanno trattando com'è. Che lì c'era sempre sorridente, però che facciano un po' di sacrifici per andare lì. Ma tira Cipollari. Ehi. Eppure Gianni Esperti dice che anche lui, ma non è vero. Io non ci credo, sono troppe chiacchiere. Ehi, sta facendo... sta rivoluzionando tutto Pier Silvio. Non lo so, di cosa Barbara D'Urso sono l'uomo più felice del mondo. E vabbè, io no, perché è sempre una persona che deve campare, ha bisogno di uno stipendio e sempre un po' mi dispiace, poveraccio, anche se guadagna bene, quello che vuoi, però è stato tanti anni che ho Berlusconi e poi di colpo, boom. La cucagna è finita, si dava troppe arie, l'hanno chiamata una chiamata in diretta lì, le hanno detto dottoressa lì, sì, e a chi dottoressa, ma che meraviglia, buffona, fatto bene che c'è la Bialucci, torna a Napoli, a Palazzo Quara, non le basta che ci ha guadagnato, se no se la conservati peggio per te. Sembra cattivo, sì, tu cavolo. Diciamo che una può non piacere, può piacere, non piacere, però il fatto che una volta che era anche Berlusconi che si è alzato la gola, era di fronte a Berlusconi, no? Ci aveva questa cartella e gli hanno fatto il filmato che lì con la cartella si è alzato la gola, già aveva una minigonna, e Berlusconi gli ha detto se fa così lo sa come sono fatto io. Questo ragazzo è stato di parola, già fatto, già fatto, guardate, erano già arrivati su, troppo dopo, troppo dopo che è arrivato, guarda io domani te lo sto studendo, massimo uno o due giorni ce l'hai. Buongiorno. Via Pompo, ciao. Ciao, saluto i presentiti. Tony, come ti sei arrivato a questo baraccocco piccolino? Un po'? Ho detto guarda come ti sta arrivando? 9.10, 9.15. Senti lì siamo compresi a radio 15. Boh. Ho detto 9.10, non picchia a 9.15, quindi sta arrivando bene, a voglia. Vabbè, la radio è il microfono normale? Già va bene, cosa vuoi di più? Un cavo ci va quella. A voglia, già va bene. E un CB800 sto usando, vedi tre canali, già andare. Ma lasciare quello il microfono, così almeno non fai casino con quello lì. Ah, che dopo li metto l'usciure qua, più tardi lo attacco. Più tardi, quando fa buio fa gli attacchi. Un capo, ma tanto c'è in pensione, oggi travagliato domani. Ah, vabbè. L'hai lasciato uno solo adesso, sei contento, come volevi fare tu. Ah, pa, sono tranquillo, tanto bene. Non mi piace le frequenze, ma oia. Ma dopo l'inverno ci voglio vedere con la bugia che non esci, né niente. E ora sei a casa, c'è l'oracchino, l'accendi, ci sono tutti. Poi il PC, posso entrare su internet, non c'è problema, col telefonino, col PC, capito? Sono sempre 23 canali, da. Modulo sempre su 10, su 23. E quello che è vero, anche su 12. E quindi cosa vuoi? Chiami un po' di canale, fa cosa? Fa la buccia chi si appone, così. In banda laterale ho visto che c'era sul troppo in banda laterale, in FM la maggior parte è francese, ma c'era via luce. Francese e tedeschi. Guarda, no, io la c'ho il PMR, li sto usando tutti e quattro, figurati. Parlo lì e mi sto divertendo tutti i giorni. Da qua, figurati, anzi non da qua, da casa di Giovanna, in cucina ho dato contatti a Mirko, a mio nipote, era nella alla bettellina di Santa Maria di Pisa, fondo scala stava arrivando, si dico come se fosse vicino a casa, cazzo di la verità, sta arrivando benissimo, gli ho detto, ci sto bene, anche io ti sento benissimo, mi ha detto. Io ho detto la cucina e lui, bello tranquillo, di fronte a me lui zitti. Ma io ce l'ho, non l'ho mai usato, l'ho usato pochissimo, non le uso perché ci vuole l'antenna, io l'antenna non le voglio pulire, non le uso così. Perché antenna c'aveva mia nipote, antenna in gomma mi stavamo usando, portatile con antenna in gomma, non era con antenna esterna, hai capito? Con antenna esterna l'ho provata la settimana scorsa e parlavo tranquillamente con Pietro, stavo parlando con Pietro, lui l'ha accompagnato sino al tempio, l'ha accompagnato, io con la verticale e lui con l'antenna, la Diamond, quella che ho io, con l'antenna magnetica, capito? Sì, da lì. Sì, da lì, pare, il 27 non ci arrivo di me, lo sai, già lo so, è una cosa molto strana, però di lì ci sono arrivato fino al tempio, mi ha detto, poi ho dovuto staccare perché è arrivato lì a posto di lavoro, dove devo lavorare, devo attaccare l'antenna, e la messa dentro la macchina. Era tutta questa portata, ma proprio quanti c'è? Ci provate con il tipo che c'abbia il coso. Io stavo usando il V5 RQ Plus, non c'ho altro. A lui gli ho dato il mio e io mi sono tenuto l'altro qua a casa. E poi c'ho gli altri due, gli ho tolto gli altri due di qua, della Baofeng, in scatolati, nuovi nuovi. E poi c'è quel famoso baracchino che mi aveva della macchina che l'avevo cambiato, il tassetto dell'audio, quello ci ha anticipato l'uscita, si chiama JX, adesso non mi ricordo, cinese comunque, 10 watt, la torre di conti, c'aveva il bip. Quello l'avevo cambiato il transistor e non lo posso fare mica io, no, quello bisogna farlo da, portarlo da qualcuno che fa di quei telefoni cellulari e fargli cambiare il transistor e basta. Perché cosa sono micro componenti? Allora o ti attrinzi tu e ti prendi l'attrezzatura per fare questi apparecchi, non sei limitato. Ah, ma così, no, spendo più soldi, no. A noi ci vogliono un sacco di RAM, ma sei mancante, no, non me ne frega più nulla a me. Ormai mi sto aspettando che la risposta della pensione e basta. Ormai mi è arrivata già, come si chiama, che non posso lavorare, dalla sede sociale, mi è arrivato il foglio e praticamente me lo incarico loro, quindi sono a posto io. Devo solo aspettare fare queste quattro visite e poi c'ho la pensione, se la prendo in culo. Tutto il resto, non ci salgo più né sui tetti né sul posto a fare niente, non me ne frega nulla, il mio lavoro me lo sono già fatto, mi lo vado a ammazzarmi. Oh. quanto sei vecchio, muori subito. Quello è il vero, insomma, a me sono vecchio, 60 anni, va, fa culo e i palazzini, cazzo, li ha fatto. E ci gattrotto, ciao. Poeti. Ciao a te. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Ma non male, entrate, ci sentiamo, perché qua stanno salendo tutti. No, io vabbè, ce l'ho quasi sempre acceso, oggi in particolare, oggi ce l'avevo acceso in camper, solo che stavo rientrando, non c'è nessuno. Adesso ho acceso qua a casa per metterli in moto, più che altro. Io ho sentito il tattonino chiamando, ce l'avevo tutti accesi perché ogni giorno li accendo, perché se li lasci spenti poi cominciano difficili, roba del genere, quindi ogni tanto li accendo e ho sentito il tattonino chiamando, ho risposto. Andare, facciamo i documenti al PC, dai, ci sentiamo più tardi magari, a dopo, ciao Antone, vecchietto. Ciao a te. Saluto neanche a te, hai sentito, fai documenti, fai al computer. E sta guardando le donne nude. Ciao, ciao, ciao, ciao. Hanno trovato un ragioniere in un posto dove andava a consegnare guardandosi il computer e le donne nude. I pipini porco. Ah, già, tu sei convinto che quando prendono uno, quando gli dici cittadinanza che fa formazione per il computer, no? Secondo te dove va? Nei siti porno si guarda nei siti porno. Dice guarda, io il computer lo uso così. Se va bene è così, sono sta bella lei dice. Ma adesso lo stanno ancora dando questo cittadinanza lì. Sì, hanno fatto marcia indietro. Il diritto cittadinanza ce l'abbiamo fino a dicembre. Ci ha ripensato la signora. Ah no, a Napoli non lo scherzano, mi chiamo stare di buoni di buco. Ehi, quelli fanno con la civile, dici, come fanno le feste fanno anche il casino. Sono 3.000 napoletani, però sono tutti, hanno carattere. Io non so, sai uno cosa gli ha detto in televisione a un politico? Dice a me cosa me ne frega. Per me può anche tu rimanere il diritto di cittadinanza, qual è il problema? Mi sono fatto 34 anni di galera, mi davano 1.500 euro di stipendio al mese. Allora, faccio una cosa, non vengo a tira, il primo dice, ma cosa che faccio quando mi alzo? Mi prendo una pistola, vado, rubo, mi faccio arrestare, mi faccio altri 35 anni e me lo c'ho la pensione e più anche lo stipendio. Mi devo aver ragionato, però c'è vita, non c'è libertà. Quando ho fatto 34 anni in galera con la 1.500 euro al mese, allora sai che gli basta per avere la pensione a quello, se fa domanda gli bastano 30 anni, una cosa del genere, anzi 30 anni no, ma altri 5 anni di galera e lui bello tranquillo si prende la pensione di 900 euro al mese, alla faccia nostra, c'ha ragione, mi. Come ti andava in galera, gira gira. Tanto mai in galera lavori, quindi, tanto per dire, come è successo a quello, c'è l'autorgastro, prende per buona condotta, esce, fa la semilibertà, poi si prende la libertà e in pratica la galera non le fa più, quindi in pratica lavora, bello tranquillo, non fa altro che entrare cioè, lì in galera alle 8, alle 9 di sera, e c'era lo stipendio della pensione, cosa gliene frega? Ha toccato un gatto viene, e sta bene, è pagato allo Stato. E vabbè, se lui va bene, a me non andrebbe bene stare in galera, io morirei, perché non so stare chiuso, io devo uscire sempre, la mattina, la sera, sempre devo uscire, perché chiuso non riesco a stare, quindi se lui va bene stare chiuso e faccio una vita così, da carcerato, a me non va bene. Vabbè, quando c'è la semilibertà non è che sei chiuso, ne lo sai, ormai... ti mandano a lavorare, quindi sparisci dalle 8 del mattino fino alle 8 e mezzo di sera, alle 8 e mezzo di entri, quindi sei tutto, vai solamente a dormire e basta, non è che fai altro, quindi se c'è odore il gatto di figura di tu, a un certo punto poi magari ti lascia la fuori, ti cerchi in casa, eccetera, eccetera, e con baciare il tuo elettronico e sei a casa tua. Non è come dici tu, che chi deve scordare la pena a lavorare all'interno del carcere, non mica la fa uscire fuori. È difficile che qualcuno esca fuori, deve essere una persona che non è pericolosa, eccetera. Si devono fidare per lasciarlo andare fuori così. E non è così, no. Io guarda che praticamente ne seguo due, una donna e un maschio che sono stati incarcerati e dicono tutto quello che succede nei carceri, è vero anche che li pagano, prendeva 1500 euro con la busta paga, perché lei lavorava in lavanderia e lavava la roba, eccetera. E prendeva lo stipendio mensile, capito? Solo che diceva a comprare una cosa e costa tre volte di più di quanto costa fuori. E già ci sono quelli se avevi per pagare, non ti preoccupare. Quando ci sono quelli della fase di Bologna, eccetera, eccetera, negli anni 80, capito? Ne avevi più, che sono fuori, sono in giro, ce ne sono parecchi di quelli. Hai capito? Ti sono fatto un po' qui a nelle galera. Siccome hanno fatto la brava e quindi vanno a lavorare fuori, eccetera, eccetera. Con la sua ragazza, figurati tu. Poi, è tutto questione dei giudici, già lo sai, che tu, purtroppo è così. Non ci possiamo fare niente. È tutto questione di dirà. E anche gli avvocati, è sempre questo. Se c'è, se c'è l'avvocato bravo, da lei non te ne vai, questo è poco ma sicuro. Non è così, secondo te cosa hai fatto? Ho già te la fatto lo stesso la galera, si ammazza qualcuno. Ah beh, quello è vero, ma a volte dipende dal giudice, lo sai, la sentenza che fa, quindi è un casino. E ogni giorno non la scendevo più la parecchia. Sarà più due tre mesi, allora c'è. Lo sta accendendo. Ma accendilo perché sennò poi io il gas, anche io così che non accendevo e mi stava dando problemi. Praticamente si accendevano solo i numeri finali delle frequenzioni, insomma. E stava sparendo tutto il coso. Poi l'ho fatto scaldare e si è ripreso, non l'ha più fatto. Sì, vabbè, quella è una fesseria, fate dare metatore più che altro. Era successo all'apparecchio di cosa, di... Mi viene in mente il nome adesso. Quello che abita vicino a Walter. E si accendevano gli spray che davano dei problemi. Ed era l'alimentatore, la capita. No, ma qua una volta che ha scaldato, l'ho fatto scaldare una giornata, un paio di ore, poi l'ho riacceso e sempre è andato bene. Lo sono usato già 4-5 volte, sempre tranquillo. Sì, era proprio una questione di condensatori, secondo me, che si stavano scaricando. Ma ragazzi, il condensatore di quelli dall'elettatore, quelli grandi. Cioè sono due o tre, sono di Codomani, faccio le foto per quello. È stato un ecco quello che avevo io, l'ho dato a Piero Drago, quello che avevo dato a 50 euro. Ma sto usando il 140, va benissimo, non mi dà nessun problema, è perfetto, no? Nessun difetto, va in tutte le frequenze, non se ne scende, no, eccetera, eccetera, è di lusso, 50 watt di potenza, perfetto, è un treno. Quello si sa che sono treni, se hanno durato tutti questi anni è perché sono fatti bene come apparecchiature e poi la Kenwood non si smentisce mai. Lo so, già lo so. A voi. voglia, ha voglia. E c'è anche bene, poco fa ci è andato a far culo uno russo, ci è andato a far culo. L'ho chiamato, adesso mi ha fatto scusi, te ho fatto in Italia. Mi ha risposto, frequenza occupata. Allora gli ho detto, fa una cosa, va a far culo. E lui mi ha detto, stronz, e gli ho detto, e gli ho detto, stronz sei tu, gli ho detto, prima cosa. E poi va a far culo due volte. Ma cosa era, ti dici? No, era un russo. E tu russo c'è una bizzarra. Ma ho detto stronz, quindi ho preso la risposta, io mi piglio il culo e passa buona festa, ha detto buona Pasqua, gli ho detto comunque. Ma c'è bisogno di parlare così, si era occupata la frequenza, ma stava, ero, se ne andava più basso, già mi da futti, e stare a bisticciare, a fare, ui. E non c'era nessuno, stava parlando con uno, ha smesso di parlare 3 minuti prima di entrare io, guardate che si è andato così perché c'era una volta, si è andato perché non c'era più nessuno, l'ha salutato, quello là, e infatti non ha voluto parlare per me, con me perché sono italiano, il discorso è quello, sai che noi, gli italiani ci odiano i russi, quindi... A un certo punto ce l'ha mandata a cagare, non lo va. Ci udiano, Berlusconi era amico con Putin. Cosa dico? Sono per esempio Berlusconi. Vieni qui in Italia che ti do un po' di euro. Ehi, ma adesso ci udiano perché gli stiamo fornendo le armi. Ah, che bello, aspetta, adesso l'hanno messa, c'è l'allevatore che sta chiudendo tutta la sua stazione, 650 euro, Castelfranco in Miscano, il com 7000 sta vendendo, c'è la pochina parecchi, cazzo, c'è il PS2000, poi c'è l'altro, c'è un 430, mi sa che c'è un salto un pure se mi sbaglio. Dove lo stai leggendo? Sto guardando ora una cosa su Facebook. Mercatino dell'allevatore. Giuseppe Serape si chiama questo. C'è anche il mio telefono 339-664-7434. Sta vedendo tutta la sensazione. Però quello che sta avendo adesso è lì come 7000. Ah, non è tutta la stazione a quel prezzo, mi sembrava strano. No, c'ha gli apparecchi tutti da vendere, qui c'è scritto lì, c'è. Che in pratica sta tenendo la stazione, cioè, deve vedere tutta la stazione, sta avendo un pezzo alla volta. Here is Swiss station Kilo Alpha 79, Swiss station Kilo Alpha. Qui la Svizzera. Attention, my friend, Italy from Sardinia. So, hello Sardinia, here is Switzerland calling. My name is Mike from Zurich, go. Roger, bel segnale, Santiago di 95 da Radio 5, bel segnale. Radio 5, Signal 5, is this correctly? Yes. Avanti Alessio, parlali tu che inglese non ne parlo, non speak English, parlo Italian e Frenzy. Ok, thank you very much, grazie mille, greetings from Turigo, Switzerland, bye bye, grazie. Bye bye stranger, my name Gianni Delta Romeo della città di Sassari, nord Sardegna. Wonderful Gianni, grazie mille per questo. All the best for you, my friend. Thank you. Era la Svizzera, amico. Era la Svizzera questa. Una sera dalla Svizzera. Mi ha ascoltato, 7351. Buonasera Italia, grazie mille per questo. Station Alfa Lima number 1, operatore Anthony, Italy from Sardinia. 7351, per te, collega familiare, bye bye. Bye bye, grazie. Ok. Thank you, thank you. 7351, a te e il tuo QRA, famiglia, avanti Alessio. Il nominato mi parlava così, mi ha detto, i nominati sono fuori, lo salutano e tanto di risultato tutto sul computer, capito, cosa che ne frega, di continuare a parlare. Mi danno il segnale, eccetera, eccetera, e basta. Mi ha fatto il prossimo me. Fa la porta libera, è da una scelata, da una scelata. E quando fanno i contest e così, però già ci sono anche i canali dove tra di loro parlano come noi. Se avessi 40 metri, praticamente io faccio ascolto e li sento che parlano come noi su 40 metri. Però sì, quando fanno i contest hai ragione, fanno così, segnale, si saluta nel video. Segnale nominativo e saluti, bro. Esatto, sì, proprio così, infatti. Fanno così. Danno il nominativo, i saluti, stanno a tre, il segnale quanto arriva e basta. E poi tutto fatto. Quindi figurati. No, no. Ok. Sta andando benissimo, sta andando, sta riscaldando, c'è la ventolina, sta funzionando, me la va, tutto a posto. Cosa ci hai messo lì il microfono, lì il saletto? Posso mettere in saletta, posso mettere il microfono di girare su o il microfono al mare, l'avevo fatto io il cavetto. Ho fatto un mamelo, uno l'ho fatto a Marino addirittura, di questi cavetti. Anzi, Marino mi sembrerebbe a due addirittura di questi cavetti. Posso mettere anche l'M95, l'MB più 5, e microfoni differenti posso installare. E questo che stai usando adesso che cos'è? Questo è il saletta. Ecco, questo qui la radio esce benissimo, esce proprio limpida, bella. Il microfono è a 1. Adesso guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cos'è maletta l'amplificazione? No, ma così è troppo, Alice, così è troppo, che la rende più cupa. Invece, come di prima, è proprio limpida, la radio è bella. Così va bene, 1,5. Più avanti vai e più te la rende cupa, ti dà più toni bassi, capito? Sì, già ho capito, lui già lavora bene. Auria. Mi dà un sacco di soddisfazioni questa parete qua. Se sembra di usare un telefono, quando c'è DX non c'è bisogno neanche di sollevare più di tanto. Sono a 50 watt di portante, come facevo con 70. Perfetto, non satura e niente, ne ascoltiamo tutti. E l'MC60 l'hai provato lì? No, non ho mai provato la vetta l'MC60, poi vabbè, una volta avevo provato nel 680, faceva schifo, ecco perché non l'ho mai usato. Ho usato sempre saletta, già lo sai. E lo so, molte persone non va bene. Non va bene. Potrebbe dire che la radio occupa. Se voglio una stazione fissa completa della TV, devo via che mi compro l'alimentatore, lo speaker con coso e cioè la roba girare su, proprio per andare bene, per essere bello. E l'MC60. Così va bene, ma per il momento non me ne frega niente, intanto cioè spendere soldi per comprarmi un altoparlante, l'alimentatore su originale con l'MC60 non me la fotti nulla. Sono, devi contare che sono apparati di 30-40 anni fa, mi hai capito? E con comprare l'FT7B con l'alimentatore suo, che io l'ho avuto, che faceva l'alimentatore altoparlante che poi l'aveva regalato a Alba, se ti ricordi, a Immacolata, l'avevo fatto io l'alimentatore. Lui parlava la casa sua e arrivava fino al vero. poi una volta che c'era trasferita a casa della madre che si era sposata, sapendo tutto, sapendo il macchino, aveva detto tutto quello che avevo dato io, antenna. Si stufa, se non c'è la passione ti stufi, guarda, noi siamo rimasti anche se c'è poca gente, siamo rimasti perché la passione c'è, se non avessi avuto la passione non sarei rimasto così, capito? Lo so, l'altro giorno su Facebook mi ha scritto Roberta Bertolina, addirittura la sera, in pratica la nipote di Carlo, cioè la nipote di Carlo, la nipote di Angelo Grezzino, una ragazzina che raccontava le barzellette quando era piccola, di un latino. Ebbe Roberta, sì, ancora viva, si è detto, mi ha scritto. Siamo stati fino a mezzanotte parlando, figurati. Ha detto che adesso si compra, come si chiama, i contatti di PMR e usa quelli da Ussi per parlare. Martino dice non ne ha nessuna intenzione di parlarlo perché no. Però di merito dice portato, dice quelli me li ordino. Costano la fesseria e parlo di mia, ha detto. Un certo quello non c'è problema, gli ho detto. Fanno un sacco di chilometri, ho detto, questi contatti di qua. Ecco, ci sono, detto, 18 canali, a voglia parlare, detto. Ma forse come trova un ostacolo si blocca quella frequenza. Magari c'è stato più sì, niente di strano. Ma io, grazie a Dio, sacco di qua non ne ho. E sento tutto, sento. Figurati. Ci sono due tipi di portate. Uno è c'è scritto HLW, che è quello che ha regalato a coso a Pietro. Io ho i Bonfeng, ne ho due coppie, una coppia ce l'ho io, dove ce ne ho due, gli altri due ce l'ha Giovanna e poi gli altri due ce l'ha Pietro. Ho lavorato due HF Marini, ho lavorato in casa di questi due portatili qua PMR, figurati. C'erano due HF che facevano dal canale 1 della Midland, avevano un sacco di soldi. Faceva il canale 1, il canale più delle, non mi ricordo se era 100 qualche cosa. C'era Natale, io solo lo ricordo male, a volante. Non lo so. E vabbè, e certo cosa te ne vai? Ora, ci sono, buonasera. E sì, vabbè, bene, e volante a lui, volante. E lui, dietro di Servibano, e... E poi vabbè, facciamo così, gli ho detto. Vabbè, io non mi piaceva, non li utilizzavo, non mi avevo primi, mai usati, ero. Scatola e tutto gli ho dato. Alimentatore, caricabatterie, tutto, sì, scatolato e tutto, era della micro, già costavano poco quel periodo. Allora, Tittino. Ehi, sto prendendo misure, il vento mi ha fatto danno, porca miseria. Che cosa ha buttato giù? L'antenna? No, stavo rientrando da Rosei col camper e ho perso il vetro della mansarda. Vabbè, adesso ho preso le misure e le compriamo. Quindi a Rosei eri? Sì, Antonio. No, già, non era attaccato male. Talmente era forte il vento che spostava il camper da una parte all'altra. A una velocità, non so, circa 90, 100 di velocità, e io il vento mi spostava e a un certo punto è venuto la raffica del vento, addirittura mi ha chiuso lo specchietto laterale e mi ha fatto saltare il vetro della mansarda, quello che mi ha anche fatto. Vabbè. Non so cosa dirti. Allora un po' svirgolata, l'ha fatto uscire fuori, come l'ha più il colpo, l'ha un po' mosso, capito? Sì, ma è rimasto in terra però, l'ha proprio strappato. Questo allora, quindi se fosse giù il viaggio c'è salvezza. E allora, ho messo un po' di cuscine, qualche tipo più, questa roba qua, attaccato alla tenda, mi ha detto che mi strappava anche quella, e poi sono tornato a casa. E vabbè, sono cose che capitano. E vabbè, interessante che si possa riparare poi, non è quello il problema, lo riprendi, magari lo trovi anche a Ferruvecchio. Franco l'aveva comprato lì un vetro del camper che gli si era rotto, e è andato al Ferruvecchio, ne ha trovato uno e l'ha pagato, mi pare, pochi soldi, là costava 150 euro, mi pare gli ha dato 40 euro, una cosa del genere. Questo a Ferruvecchio non so se lo trovo, non so, adesso vediamo. No, io l'ho proprio perso, non ne ho più, non ho attaccato. È andato a finire sul 131, ma non aveva colpito, non ha colpito nessuno, però devo vedere un po' se riesco a trovarla. Adesso ho chiamato a Matteo, un amico, che voleva lavorare lì da Campis, e vediamo un po' se me lo procura, se no potrà prenderlo online, lo faccio, vediamo. Era come una volta che c'era proprio il gommista che si abbia a Pirandello lì a cambiare le gomme, e sono tutto contento, ho cambiato tutte e quattro le gomme della macchina, tutto a pulso, e stavo andando su al Ponte Nuovo e vedo questa cosa volando, e ho detto che cazzo è questa cosa, mi è passata davanti al vetro e non capivo cosa era. Poi mi sono fermato con la macchina e cosa era? Mi ha rimbusso male le pattane e me ne è volata la pattana. Sono tornato e gli ho detto, c'è già vado a Ferruvecchio a cercarne una, che sta Ferruvecchio? Se sono lui di battare mi va a Ferruvecchio, e già te la trovo una, già vado e trovo una nuova di quelle buone. Neanche piazzata, figurati. Sì, Antonio, ho lasciato a mio figlio di lavorare lì a Rosi, ci abbiamo fatto un paio di giorni, quindi eravamo in fase di rientro. Hai fatto bene, allora si è fatto un viaggio, figurati, così già va bene. Dico, sta facendo il corso di cavaliere, mi ricordo, il figlio di Giovanna. Adesso fra poco dovrebbe finire, speriamo che lo chiamino in qualche ristorante o pizzeria a lavorare, almeno più tranquillo. E cosa sta facendo la stagione? Sì, bagnino in piscina, si è preso un brevetto, quindi sta facendo il suo primo impiego. E Antonio, però diciamo la verità che per la stagione sei già in ritardo, perché a quest'ora li hanno già presi, però magari riesce a trovare un piccolo buco. E Marco è andato a Porto Istara, Marco sta lavorando a Porto Istara, ma è da maggio che è andato, gli ultimi di maggio. E dove? A Porto Istara, in un albergo sta lavorando. Ma anche lui è un albergo, un hotel, insomma un residence, non so cosa sia, abbastanza grande. Però l'ha trovato così, tramite agenzia, capito? Ah, boh, io Marco non so come ha trovato, però dice che sta bene, perché loro fanno il service, capito? Quindi lo devono sparecchiare, la roba se la prende la gente, c'hanno il service, il ristorante e un albergo a 4 stelle, quindi di quelli che ti rilasciano, poi alla fine ti rilasciano un attestato dove con quell'attestato lì puoi lavorare a qualsiasi parte, perché un albergo a 4 stelle e ti danno delle buone referenze, capito? Vabbè, ma lui sta lavorando come cameriere però. Sì, cameriere. No, cameriere no, non la vuole fare. Mi hanno proposto un paio lo stesso, ma lui sta facendo bagnino. Sì, ho capito. E vabbè, Marco l'ha preso così, ma Marco sta studiando all'università, l'ha preso per farsi un po' di soldi. Eh beh, certo. Vabbè, vediamo cosa esce fuori. E dico che se la faccio con l'esperienza qui. Adesso guarda, un mese, poi il prossimo anno magari riprenderà, ma lo chiamano, se lo chiamano, lo chiamano dall'inizio della stagione. Ma Marco è partito dall'inizio, proprio, è partito dall'inizio. È meglio che non vuole che se ne stiano sdraiati nel letto senza fare nulla, più che di quel computer o cose. No, è meglio che vada a lavorare, almeno conoscono il mondo del lavoro. Bravo, è proprio a quello. L'esperienza va bene per tutto. Anche perché conosce anche il sacrificio. Andare, andare. Antonello, ma come stai pensando già andarti a morire? Ma perché? Ma perché devo morire? Ci mancherebbe, no? Mi è arrivato in fuori, mi è arrivato dalla parte del come si chiama? Del comune. Quindi io sono a carico dell'ufficio di collocamento del senso sociale, capito? Quindi sono a posto fino ad arrivare ai 97 mi a me, 67 anni, a 65 per esattezza, già avevo 22, quindi non possono toccare a me. Per tutto quello che ho, ormai guasto solo, guasto rimango, quindi non posso fare niente. Almeno me l'hanno detto tutto a posto. L'unica cosa adesso è aspettare la pensione se ci arrivo. Capito? Se mi chiamo fra 5-6 anni, sai che cazzo va a chiedere come si chiama? A parte via. A parte le visite ci vuole lei, Gesù bambino ci vuole. Ancora tu non sei pensionato, vero? Non sei in pensione? No, non sono in pensione, però mi hanno avvalorato 67% di validità, quindi ne valeva almeno 74, quello che almeno 104, chi se ne frega. Bene, bene, bene, pensavo che eri già mezzo pensionato, andare, bisogna aspettare, dai. Sì, ma almeno io ci ho culo parato, perché non posso lavorare. Il codice me non l'ho fatto io, l'ho fatto del senso sociale, che è discorso diverso, hai capito? Gli ho presentato la documentazione e ciò di tutti sanitari, eccetera, eccetera, come ha visto quella lì, lei mi ha detto deve stare tranquillo a casa, non si deve manco muovere, mi ha detto che ci deve andare a fare qualche lavoro. È meglio che rimanga a casa, mi ha detto. Qualcuno che ha detto capisce, e intanto la commissione se ne è fatti i coglioni, gli ho detto, se ne scende a uno di fatto cosa gliene frega. È vero, va bene, dai signori, io mi metto un attimino alla ricerca di questa cosa qua, già sono in quel Rix e vedo un po' se riesco a trovare qualcosa su internet. Niente, dai. Già sono in quel Rix. No. Prendete, già sono qua. Andare, no, io ho messo per semana salato che devo scendere col camino. Vi saluto tutti, statevi bene, entrate ogni tanto, perché ogni tanto mi fa piacere farmi una chiacchierata e ci sentiamo. Io sto andando giù, vedo portare giù il cane che è venuto a avvisarmi e lui viene e mi fa capire che vuole scendere. Ci sentiamo, ciao Alessio, ciao Tiro, ciao a tutti gli altri amici che sono in ascolto, W1 QRT esecutivo, Torino non si è più sentito, saluto anche a lui, sei all'ascolto, vabbè, poi è partito con l'apparecchietto che stavo usando. No, magari l'hanno chiamato, è uscito, mi ha telefonato. Ok, ciao Gianni, ci sentiamo, buona passeggiata col cane, io ho già portato. Io guardo le A2, quindi figurati tu da Riccardo Manzano, via. Una ecco, due cavalli c'ha cazzo. Il cane ci ha preso giù. C'ha un bar in mano e poi un altro che è un bastardino bello grande. Quindi c'ha due cavalli c'ha. E ci pensi tu hai? Io no, ci pensa lei, ci pensa. L'ha presa la figlia, l'ha presa qui, figurati. Ciò che gli ha scaricata la madre, e qui adesso la madre deve portare il cane a passeggio, la sera e anche la mattina. Quando certe cagate sono cagate di cosa? Cagate da un metro. Ma sono già grandi? Sono grandi abbastanza. 4, quando si mette in piedi sta tranquillo che arriva quasi a 1,10 m. Vabbè, li hanno dati già grandi qui. No, no, era piccolo, non l'ha preso. Poi, come vi parlo del tedesco, diventa subito lungo, capito? E tu già c'è quello piccolino, sempre ce l'hai, sì? E tu mi sei, come ce l'ho sempre, ogni mattina alle 6:30, capito? Mi dà il bacino del buongiorno, mi dà, si mette sopra la pancia, si sdraia e poi mi bacia la fronte e le orecchie, non mi dice alzati che non hai alzati. Tutti sono così, dai. L'amore che danno i cani, manco Cristiano te lo dà. Vabbè, dai, ci sentiamo, vai, stammi bene. Salucami a tubi. E l'unico che non ha morsicato sono io. lo so, l'unico che piscia le scarpe invece è Marino. Perché Marino, quando ogni volta che viene lì, che viene a casa, gli piscia le scarpe. Mettiti la linea, prova a chiedere a Marina se non è vero quando lo senti. Oh, vabbè, sto uscendo, Gianni. Ehi, dai, sono andato via, dai, sì. Dimmi. Il numero di Franco ce l'hai? Mi chiede Franco California. Dovrei averlo, sì. Facciamo un ricorso anche io. Ma lo mandi? Ehi, adesso se lo trovo te lo mando, dai, prima di uscire. Ma così provo a sentirlo, a vedere se sa qualche cosa anche lui. Kappa, va bene. Ciao, ciao, ci sentiamo. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, Gianni, ci sentiamo. Ciao, Antonio, ciao. Ehi, ciao, ti ci sentiamo. Blondi che parla, diceva quello.